Radio Virus presenta Rosa di Sera, da tavolo transfemminista queer Macao, Carlizia, la vocina che ti vizia, legge favole per diventare di tutti i colori che volete. La vera storia dei bonobo con gli occhiali di Adela Turin. I bonobi vivevano tanti, tanti anni fa in un boschetto di paletuvieri, sempre molto occupati a rosicchiare frutti e bacche, noci e semi, radici e boccioli, che le bonobe raccoglievano tutto il giorno per loro e per i piccoli bonobini. I bonobi, fra i paletuvieri, chiacchieravano e mangiavano e battevano le mani e picchiavano sui tronchi. Il rumore che facevano si sentiva da lontano e i pangolini e i loro lenti, loro vicini, così amanti delle sieste, se ne lamentavano amaramente. Un giorno, un po' stanchi di ripetere le stesse cose, i bonobi decisero di diventare istruiti. Dopo giorni e giorni di discussioni, votazioni, deliberazioni, conclusioni e decisioni, i quattro più belli partirono per Belfast per studiare l'inglese. Quelli rimasti continuarono a chiacchierare e a mangiare i frutti e le bacche, le noci e i semi, le radici e i boccioli raccolti dalle bonobe per loro. E un bel martedì i quattro belli tornarono da Belfast. Portavano tutti e quattro gli occhiali e trascinavano ciascuno una valigia nera. I quattro con gli occhiali si installarono sull'albero più alto e gridarono per tutto il giorno delle parole stranissime che nessuno conosceva né capiva. Full! Stop! Ring! Black! Urlavano. Gli altri bonobi erano schiacciati dall'ammirazione. Così i quattro con gli occhiali incominciarono a insegnare le parole. Le bonobe davano loro razione doppia di frutti e bacche, noci e semi, radici e boccioli, e gli altri bonobi imparavano le parole. All'esame, chi sapeva quattro parole era promosso e riceveva un bel paio di occhiali estratto solennemente dalle valigie nere. Dopo qualche tempo, tutti i bonobi portavano gli occhiali e tutti gridavano le parole. Anche le bonobe ascoltavano le lezioni e anche loro imparavano le parole. Ma i bonobi non davano loro gli occhiali, perché era uso che le bonobe portassero un fazzoletto in testa e così gli occhiali non rimanevano a posto e cadevano. Alcune bonobe tentarono di levarsi il fazzoletto per poter portare gli occhiali, ma le risate e il sarcasmo dei bonobi furono tali che dovettero rimetterlo svelte svelte. e i bonobi pensavano: meglio così. Se anche le bonobbe si mettessero a insegnare le parole, chi raccoglierebbe i frutti e le bacche, le noci e i semi, le radici e i boccioli per noi e per i bonobini? Ma le bonobbe si stancarono di raccogliere tanti frutti e tante bacche, tante noci e tanti semi, tante radici e tanti boccioli, e di ascoltare le quattro parole che ormai sapevano a memoria e che cominciavano a trovare insulse. E un giorno decisero di cambiare boschetto e di fare soltanto quello che avevano voglia di fare. Una bonoba fece crescere fiori attorno agli alberi, un'altra erbe aromatiche che profumavano tutto il boschetto. Un'altra tagliò un flauto in una canna e imparò a suonarlo così bene che i pangolini e i lori lenti fecero meravigliose sieste, cullati dalla musica. Quattro altre bonobbe si misero insieme e fabbricarono delle amache per dormire fresche e comode nelle notti d'estate. Altre bonobbe fabbricarono coperte di canapa per le notti fresche, aquiloni per i giorni di vento, ombrelli pieghevoli per i giorni di pioggia, e giocattoli per i bonobini, e strumenti musicali sempre più complicati e melodiosi. Il boschetto diventò bello e confortevole, pieno di musica e di giochi, profumato e calmo. Bonobbe e bonobine coglievano le noci, i boccioli e le radici, ciascuna per sé e tutte per i più piccini. E così fu che i bonobi dovettero scendere dai loro rami per procurarsi da mangiare. Nei primi tempi, a cercare noci e frutti, semi e radici, bacche e boccioli, i bonobi, che non erano molto abituati, ci mettevano moltissimo tempo. Silenziosi, senza occhiali per vederci meglio, passavano giornate intere alla ricerca del pranzo. Le parole furono dimenticate, l'erba crebbe e la pioggia cadde sulle valigie nere e sugli occhiali rotti. Dopo qualche tempo, diventati abili nel ricercare bacche, frutti, semi, germogli e noci, i bonobi improvvisamente sentirono una grande nostalgia delle loro care bonobe, delle bonobine e dei bonobini. In piccoli gruppi, senza dire niente a nessuno, lasciarono il boschetto di paletuvieri e partirono alla volta dell'altro bosco. Indignati e addirittura furiosi per quel che scoprirono laggiù, alcuni di loro tornarono a casa la sera stessa. Ma dopo qualche istante di incertezza, la maggior parte dei bonobi rimasero incantati dal luogo e decisero di fermarsi e condividere la piacevole vita delle bonobe e dei bonobini, che li accolsero con gioia. Avete ascoltato Rosa di Sera,